la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon inizio di settimana in questo lunedì 14 di luglio. Beh, 14 di luglio ovviamente a chi appartiene a una certa tradizione laica eccetera eccetera è sempre un giorno particolare, l'anniversario della presa della Bastiglia, e bisogna essere sempre grati insomma a chi ha scosso la storia dell'umanità. Ma in questa giornata vado subito al punto. Noi oggi parliamo di una questione di fondo. La questione di fondo è quella dell'industria manifatturiera italiana, che non va bene per niente, ha perso 24 rotti punti di produzione industriale negli anni della crisi, e la domanda è: come si fa a rimetterla in piedi? In particolare, soffermiamoci su un punto. Se volete darci le vostre opinioni e chiamare all'800 24 00 24, o mandare sms al 349 238 6666, cosa può fare la politica, cosa può fare lo Stato per questo fine, cioè quello di rimettere in piedi la manifattura e l'industria italiana. E poiché alcuni, talvolta molti, a seconda dei temi giornalieri trattati, mi pizzicano dicendo che becco sempre ospiti che la pensano un po' come me, oggi ho scelto di fare una cosa diversa, completamente diversa, perché l'ospite che c'è oggi, traendo spunto da un suo libro che vi invito a leggere e che trovate nelle librerie da qualche settimana, il titolo di questo libro, sono 300 pagine fitte, è La riscossa, e il sottotitolo è molto chiaro, dice: Fabbriche e Europa per far decollare l'economia italiana è un viaggio nei suoi segreti. Ecco, l'autore di questo libro non nasconde, io lo considero un amico, una persona che stimo, la si può pensare diversamente ma poi avere un'enorme stima e considerarla una persona correttissima nel suo mestiere, e di cui mi piace anche il modo di pensare, non è che per forza bisogna essere d'accordo su tutto. In questo libro, dopo parecchi libri abbastanza abrasivi che ha dedicato anche a Confindustria, ai figli dei padroni in Italia e così via, mette insieme un bel po' di lavoro, ci sono molte interviste dentro, ci sono capitoli diversi su aspetti diversi di questa questione, la sua opinione, ma non solo la sua, quello di anche osservatori ed economisti che la pensano come lui, come Luciano Gallino, sicuramente uno che la pensa molto diversamente da me, come Marco Fortis, che io stimo per il grandissimo contributo che dà all'analisi dei diversi settori dell'industria italiana e del suo export, meno apprezzato negli anni dei suoi entusiasmi su certe politiche e così via. Ma insomma, sono parecchi in Italia che insieme all'autore di questo libro dicono: guardate che qui la politica deve prendere in mano i destini dell'industria italiana. E quindi ovviamente la pensano molto diverso da me, che penso che la politica abbia fatto molto male all'economia e all'industria italiana, e quando sento parlare di politica industriale, cioè immagino che lo sia lo Stato a decidere che cosa viene prima e cosa viene dopo, beh insomma, con tutti i disastri che ha combinato lo Stato, io tendenzialmente dico: oh, ecco il problema, non la soluzione. Per esempio, quando vedo che gli esuberi di Alitalia, in questi dell'Alitalia privata, degli amici di Intesa, che ha perso più soldi ogni mese in media dell'Alitalia pubblica, e dire ce ne voleva, e vedo che di nuovo per gli esuberi di questa Alitalia, dopo 5 miliardi costati al contribuente dell'Alitalia degli amici di Intesa nel 2008, ancora una volta vengono messi in campo delle strategie per ricollocare gli esuberi, che tutti gli altri dipendenti che finiscono in esubero, disoccupati, nel settore privato, si sognano, ecco, io vedo lì la politica discrezionale, gli amici degli amici. Però naturalmente mi si può dire: questa è un'opinione del tutto sbagliata, perché è la politica sbagliata, ma basterebbe che la politica fosse diversa e le cose andrebbero diversamente. Allora, di questo libro, ve ne ripeto il titolo, La riscossa, Fabbriche in Europa per far decollare l'economia italiana, un viaggio nei suoi segreti, vi dico subito, siccome il libro ha una sua corposità, per così dire, il mio consiglio è: cominciate proprio dal capitolo sesto. Il capitolo sesto che dice l'agenda politica per arrivare davvero alla riscossa industriale, ci sono 7 punti di questa agenda, e io proporrei all'autore di parlare proprio di questi 7 punti, nei quali si spiega come una politica virtuosa potrebbe ritirare su i destini di questa industria. Io vi ricordo solo, e poi vi presento l'autore, che noi da quando siamo entrati nell'euro, cioè dal 2001, io non credo che sia colpa dell'euro, però insomma dal 2001 noi abbiamo perso 120.000 imprese industriali nel nostro paese, cioè 1.200.000 hanno perso il lavoro nell'industria italiana. Sapete che i disoccupati sono più di 3 milioni e mezzo oramai, e l'industria è molto arretrata sul totale del nostro PIL, era al 20%, sta al 16%. Però io condivido l'impostazione di fondo di questo libro, che dice: guardate che l'industria conta più del suo apporto per il PIL, perché dall'industria vengono una serie di trascinamenti positivi non solo sul resto dell'economia. Ma il problema è che per un paese manifatturiero tenere la manifattura qua significa continuare ad essere padrone del proprio destino nel mondo, in parole povere, insieme a tante altre cose, avere una distribuzione del reddito meno squilibrata. E all'autore questo tema piace molto, perché è di sinistra, non l'ha mai nascosto, e capisco che gli importi molto questo aspetto qua. Ecco, l'autore, e così mi taccio, l'autore si chiama Filippo Astone, è un giornalista che in questi ultimi anni ha lavorato al Mondo. Compianto Mondo di RCS, che secondo me per come è stata gestita male RCS, tanto per cambiarlo dico io senza metterti in imbarazzo, ha finito di essere il settimanale che era un punto di riferimento, secondo me, che bisognava tenere in piedi, si poteva tenere in piedi. Però RCS è gestita come tanti altri gruppi privati italiani, con dei soci non soci che sono abili a perdere invece che a far fare bene il mestiere ai giornalisti di valore che ci sono. E quindi Filippo continuerà a fare il giornalista e a scrivere, però lì non c'è più il suo posto, tanto per cambiare, corretto Filippo? C'è il lavoro, non c'è il posto, ecco, c'è di lavoro, lavoro, ma il lavoro ce n'è. Il lavoro c'è. Non mi allora, fermo. Filippo, in questo libro tu effettivamente dici: no, la politica può fare molto. Certo che la politica può fare molto. Ecco, io non sono di sinistra, non si capisce, ho avuto, adesso ti do una notizia, ho avuto solo per un anno la tessera di un partito. Ma non significa essere iscritto, No, no, io sono stato proprio iscritto a un partito. Sì, però voglio dire, per me non equivale il partito, a essere iscritto. Al partito radicale. Ah, io mi riconosco negli ideali di Ernesto Rossi. Cioè, non è... Ideali trascurati praticamente da tutti. Infatti in il libro si apre ogni capitolo con una citazione di Ernesto Rossi. È già il secondo libro in cui lo faccio. Esatto, che l'hai fatto anche nel libro Il partito dei padroni. Cioè, non è che se uno invoca... Perché Ernesto Rossi scrisse questo meraviglioso libro che vi invito a rileggere, che era I padroni, del vapore, contro i limiti di questa classe dirigente finanziaria industriale italiana totalmente asfittica e molto a braccetto con la cattiva politica. Appunto, con la cattiva politica, ma una cosa è la cattiva politica, un'altra cosa è la politica tout court. Sì. Non è che se In Italia non lo so, però vabbè. Ma non è vero, dai. Il sistema delle partecipazioni statali, tanto criticato, come ha dimostrato il collega Massimo Mucchetti nel libro Licenziare i padroni, ha prodotto più valore di quello prodotto dal capitale privato. Nella storia, grazie sì, nei suoi ultimi anni era un disastro. E perché non c'è più stata la politica industriale. Grazie alla politica industriale è nato un campione come l'ENI, che è ancora oggi la prima azienda italiana. Però siccome è stata anche oggi delle grandi gruppi, pochi residui italiani, se andiamo a vedere Enel, Finmeccanica, esatto. La Fiat se n'è andata, poi ci abbiamo qualche acciaiere, poi non è rimasto più niente dei grandissimi gruppi. No, non è rimasto più nulla. Ora vedi, demolire il ruolo dello Stato in economia è una demolizione ideologica, ma stiamo alla storia. Lo Stato è sempre stato imprenditore. E ovunque ci sono stati periodi di ciclo economico virtuoso, sempre è avvenuto per un intervento dello Stato. Infatti, la politica... L'impero britannico no, dai, lo sai, ma non è vero. Io non voglio parlare di questioni ideologiche. Non è vero, guarda però. Che lo Stato britannico oggi è molto più interventista di quello italiano. Oggi, nell'Ottocento la rivoluzione industriale non l'ha fatta lo Stato. I 180.000 chilometri sotto gli oceani, per esempio, di telegrafo, dell'impero britannico 1880, 180.000 erano stesi da privati e così via, cioè fortemente sostenuti dallo Stato, no, dalle banche, dalla banca Rothschild. Però non parliamo di questo, io non ti voglio più interrompere adesso. Secondo te sti 7 punti, i 7 punti sono che ci vuole un ritorno della politica. La politica industriale va rifatta, e va rifatta in chiave moderna, dove non vuol dire fare i piani quinquennali dell'URSS, dei comunisti, ma investire nella ricerca e nello sviluppo. Perché la ricerca e lo sviluppo senza lo Stato non si fa, in quanto la ricerca e lo sviluppo fatta solo dalle imprese deve garantire un ritorno sul capitale preciso, certo. E viene dopo la ricerca di base, che viene fatta dallo Stato. Infatti c'è un bellissimo libro di Marianna Mazzucato che si chiama Lo Stato imprenditore, mal tradotto dalla Terza con Lo Stato innovatore, perché c'è la paura delle parole, e che lo dimostra. Se tu prendi dimostra innumerevoli casi oltretutto nella storia del Novecento e così via, in cui le grandi accelerazioni tecnologiche private non sarebbero state possibili senza i soldi, per esempio gli Stati Uniti, i soldi della ricerca militare, tanto per dirne. I soldi della ricerca militare li ritrovi per esempio nell'iPhone. pochi lo sanno, ma dallo schermo a scorrimento ad altre diavolerie che ci sono lì dentro, sono tutte cose sviluppate da programmi pubblici. La Apple ha fatto da assemblatore. Primo punto, ci vuole una nuova politica industriale e del territorio. Senza politica industriale non si va da nessuna parte, ma non è un'idea balzana di Astone che vuol fare vetero comunista. La politica industriale la stanno facendo tutti i grandi stati europei, tutti i grandi stati occidentali e molti dei paesi in via di sviluppo. È solo l'Italia che non la sta facendo, e non la sta facendo per la paura delle parole e per la paura di dirsi comunisti. Veramente siamo a un livello di idiozia in questo paese che è inaudito. Si preferisce intervenire quando le crisi sono già marcite e costano molto di più. Perché vedi, non è che il salvataggio dell'Alitalia sia un esempio di politica industriale, è un esempio di cattiva politica ed è un esempio della assenza di scelte. Perché il tavolo di crisi di Palazzo Chigi, dove ci sono 100 dossier ogni volta accumulati, ci costa molto di più di quanto ci costerebbe fare una sana politica industriale lungimirante. La quale politica industriale può anche vuol dire non fare certe cose. Per esempio, la Gran Bretagna decise a un certo punto negli anni 70 di non difendere più un'industria automobilistica nazionale. Però invitò i tantissimi giapponesi, altri produttori. Noi non l'abbiamo fatto, ci troviamo nudi. Ma come numero di veicoli, per merito dei giapponesi, la Gran Bretagna oggi è il primo produttore di auto. Tu lo sai, Filippo, che io negli anni dicevo sempre facciamo venire concorrenti. La politica non ci sentiva, diceva solo Fiat. Ma addirittura la Gran Bretagna non ha detto facciamo venire i concorrenti, abbandoniamo l'industria. Perché? Perché ci conviene di più l'aerospaziale e il ferroviario. Quanto mi piace. E invece molliamo questo. E noi abbiamo mollato il ferroviario ai francesi, la stessa scelta, tanto per essere chiari, e oggi spacciamo talvolta come elettrotreni ad avanzati italiani quelli fatti dai francesi. Però vabbè. Ma la politica industriale non si fa con i piani quinquennali, la politica industriale si fa con la ricerca, con lo sviluppo, con l'università e con i soldi pubblici nella ricerca. Allora, questo primo punto, la Merkel, che allora, a te ti è simpatica da morire, a me sta simpatica, fa un sacco di politica industriale, perché tutte... Ma lì c'è un sistema, lì c'è il Fraunhofer che fa la ricerca applicativa con le imprese dentro e le università. Infatti la Germania è la prima nelle nuove tecnologie verdi grazie alla politica industriale fatta dallo Stato. Non c'è dubbio. Allora, fermiamoci per 60 secondi, abbiamo l'informazione sulle strade e poi torniamo con Filippo Astone. Cosa può fare la politica per la manifattura e l'industria? La versione di Oscar. Allora, eccoci qui tornati 16:47, 56 secondi con Filippo Astone. Vi consiglio di leggere, tra gli altri libri che ha già scritto, anche quest'ultimo che si titola La riscossa, fabbrica Europa per far decollare l'economia italiana, è un viaggio nei suoi segreti. Stiamo parlando di uno dei capitoli fondamentali del libro, il sesto capitolo, in cui c'è un'agenda in 7 punti di ciò che la politica può fare per rilanciare l'industria e la manifattura nel nostro paese. Allora, abbiamo chiarito il primo punto, ci vuole una nuova politica industriale del territorio, hai detto. Esatto. E hai fatto alcuni esempi. Secondo punto. Un approccio diverso all'Europa, che deve riscoprire la società e diventare uno Stato. Vedi, l'Europa viene vissuta da noi come una cosa punitiva. Sì. È quella del fiscal compact. Esatto. E, 3% del deficit, 60% sì, del debito pubblico. La Merkel col Maltarello che ci castiga, la maestra cattiva. Ma non è così. L'Europa ci mette a disposizione anche moltissimi fondi che utilizziamo male. Che utilizziamo male perché noi siamo poco presenti in Europa. I tedeschi contano molto in Europa, non solo perché sono ricchi e prepotenti, alla fine hanno 87 deputati e sono ben lontani dalla maggioranza. Contano molto in Europa perché sono presenti in maniera fattiva in tutti i tavoli che contano e in tutti i livelli, mandandoci le persone meglio preparate. E il primo compito dei ministri è essere presenti ai tavoli europei, perché noi abbiamo un sacco di opportunità che non sono sfruttate dai fondi strutturali. Anche questo programma Horizon 2020 rischia di non essere adeguatamente sfruttato. Che è un programma in cui moltissimi fondi a sostegno della ricerca in Europa, appunto, sono finalizzati proprio a manifattura, ricerca avanzata, nanotecnologia, eccetera, con importantissime ricadute, se uno partecipa bene ai bandi di gara, esatto, se li sa giudicare, sull'economia industriale del proprio paese. Ma vengono, si spera che non vengano trascurati come tutto il resto. Quindi anche in questo secondo esempio però mi descrivi una politica che dici in Italia per il momento non c'è. No, non la sanno fare. Ecco. Tant'è che... Vabbè, adesso la composizione dell'Europarlamento è un po' meglio. Sì. Però noi mandavamo tutti trombati all'Europarlamento, c'erano De Mita, Mastella, tutti questi qua. Della commissione dove ci sono i tecnici, gli italiani sono pochi, di solito non hanno proprio questi curriculum strepitosi. No, ecco, lì l'ultima volta non è stato proprio così, perché noi abbiamo avuto il commissario Tajani per l'industria che è stato veramente brillante. No, io sto dicendo nei gradi dirigenti della burocrazia, di quelli che preparano i dossier, non dei commissari politici. Questa volta è stato brillante, molte volte in passato mandavano i ministri trombati, sì. Pandolfi, questi qua. Pandolfi che rinunciò a essere commissario per ricandarsi. Sì, figure pessime. Tajani veramente si è dato da fare anche per l'industria italiana, come si è data da fare lì a Sartori, che tutti ricordano adesso per essere coinvolta nello scandalo del MOSE, tutto sommato per una piccola cifra, ma come presidente della commissione industria del Parlamento europeo ha fatto delle cose molto importanti. È un eurodeputato di Forza Italia Veneto, Sartori, per chiarire a chi. E io non sono di Forza Italia. No. Però che cosa vuol dire? Se una persona è preparata, è preparata. Se guardi tutte le cose che ha fatto, lì a Sartori ha seguito tutto il negoziato. Ecco, tra l'altro apro una parentesi per dire che in Europa si sta giocando una partita cruciale per il nostro futuro, che è la creazione di un mercato unico tra l'Europa e gli Stati, Stati Uniti. Una cosa che cambierà le vite di tutti i nostri figli. Allora, un secondo, c'è una. Tu fino a questo momento di tasse, mercato del lavoro non ne parli. Va bene, sentiamo Gianluca da Milano, che cosa dice? Gianluca, lei che pensa? Buongiorno. Io sono di Milano, mi sono trasferito a Lugano. Quindi lei ha già fatto delle cose. Ma guardate, secondo me state sbagliando il punto di vista, ovvero, sì, state parlando di finanziamenti, che dobbiamo spenderli bene, che la Merkel ci bacchetta. Secondo me, della mia opinione, la Merkel ci dovrebbe bastonare di più. Perché? Perché l'industria hanno tagliato tutto, hanno tolto anche le ossa, il sangue, tutto dalle aziende. Per pagare che cosa? Le tasse. Lo Stato cosa ha ridotto? Ah, lei è un mio ascoltatore. Renzi ha detto, no, mi scusi un secondo. Prego. Renzi ha detto, faccio le riforme. Le riforme vuol dire taglio. Non vuol dire altro. Fare delle buone riforme vuol dire tagliare, vuol dire ridurre la spesa pubblica. Ma di fatto cosa abbiamo tagliato? Abbiamo fatto un piano programmatico col SEO, insomma, ma stiamo scherzando? Va bene Gianluca, no, è chiarissimo quello che dice, se non si tagliano le tasse e quindi la spesa, perché sennò non possiamo farlo in deficit, non ne ma bisognerebbe usciamo. Tagliare la spesa improduttiva, perché se noi facciamo la spesa per delle infrastrutture, per la ricerca e sviluppo, bisogna spendere di più. E sai benissimo che hanno contenuto la spesa per investimenti pubblici, quella in conto capitale, la spesa corrente, hanno fatto andare avanti. E la politica questo fa in Italia, però se tu mi parli della politica io vado con l'italiana. Ma noi dovremmo avere il coraggio di fare delle grandi manovre strutturali. Io per esempio sarei a favore di tutti i patrimoni delle fondazioni bancarie. Faremo una manovra economica che corrisponde a un grande piano Marshall e con quelle paghiamo i debiti delle imprese e in fondo è denaro pubblico. Ma guarda, denaro di tutti noi. È un tema sul quale, siccome le fondazioni non dovevano avere ancora, a distanza di tanti anni dalla riforma Dini, il controllo bancario che continuano a esercitare. Ma io gli toglierei proprio i soldi, le privatizzi tutte e questi soldi che sono utilizzati per erogazioni a pioggia oppure sono sprecate in investimenti finanziari, mettiamole nell'economia. Le mettiamo nell'economia reale, una manovra. Un governo coraggioso potrebbe fare una cosa di questo genere. Me lo vedo io che il Presidente del Consiglio che spiega a Guzzetti una cosa simile. Ma perché la deve spiegare a Guzzetti? Abbiamo tutti paura di questi qui. Voglio dire, il Presidente del Consiglio fa propone le leggi, fa la politica e lui faccia la sua politica. Sentiamo Giovanni da Varese. Rapido Giovanni, come la pensi? Io mi viene in mente degli esempi di ditte americane che hanno comprato delle piccole ditte italiane, hanno preso poi tutte le proprietà intellettuali, sì. E hanno licenziato, cos'è? La Micron mi pare una delle ultime, e vorrei sapere come ci si può difendere da queste. Allora, questo è uno dei punti che nel libro trovate trattato da Filippo, perché lui è molto critico sul fatto che noi riusciamo ad attirare investimenti esteri, quelli che si chiamano brownfield, cioè che prendono aziende che ci sono e se le portano, per così dire, spesso i cervelli fuori, mentre invece noi non attiriamo investimenti nel greenfield, cioè delle cose da zero che bisogna fare in Italia. Evidentemente, secondo me, anche lì le tasse, il mercato del lavoro, l'incertezza del sistema giuridico contano. Però conta anche il fatto che abbiamo imprese troppo piccole. Se le nostre imprese fossero più grandi, perché per esempio io su Indesi, Twirpool, dico meno male, cioè la penso come Renzi, che ieri a Bruttomuso al Corriere della Sera diceva: oh, non mi rompete le scatole, il problema è attirarne altre di case come Whirlpool in Italia, non respingere. Tu come la pensi? Io penso che il problema non sia addirittura che Indesit avrebbe dovuto essere così forte da poter comprare Whirlpool, ma non lo è. E che c'era una debolezza. Quando arrivi alla fine della partita, il mercato deve comunque andare avanti, anche perché sennò politica industriale non vuol mica dire tenere in vita i cadaveri con i soldi dei cittadini. Politica industriale vuol dire fare lo sviluppo con i soldi dei cittadini, che diventano un investimento che poi ha ricadute su tutta Senti, l'ultimo punto, ne salto alcuni. Tu dici bisogna far crescere le PMI e la politica che può fare? Mica la tavolina dice tu cresci e tu no. Oh sì, perché può dare delle agevolazioni che incentivino le PMI a crescere dal punto di vista fiscale, può finanziare la ricerca e sviluppo della quale le PMI si possono avvantaggiare, può costruire, come è stato fatto in Germania e negli Stati Uniti, dei mega distretti o dei meta distretti industriali in cui possono andare le PMI e grazie a questo poter crescere, e può fornire i mezzi per favorire delle aggregazioni. Oggi come oggi, se due imprese si aggregano, i vantaggi fiscali che hanno sono nulli. Anche il fisco, oltre la ricerca, è una leva di politica industriale. È una leva di politica, ecco, meno male. Allora, noi purtroppo oggi l'abbiamo, lo sapevo che il tempo non bastava. Io vi ripeto il titolo: La riscossa, l'editore Magenes, Filippo Astone l'autore, 300 pagine su come, con una diversa politica da quella italiana, ma con una politica e uno Stato, secondo Filippo e tanti altri economisti che lui cita, l'industria italiana può recuperare quei 24,8% punti di produzione industriale che purtroppo abbiamo perso per strada fino a questo momento dalla crisi del 2008. Continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.